Siamo in compagnia di Paola Michelini per parlare. Ciao Paola! Una delle attrici coinvolte nel progetto Ugo. Siamo al volume 5 a Radio Rock a Roma il prossimo 20 aprile. Paola, è la tua prima volta? No, No! è la mia quinta volta, volume 5. No, io diciamo che faccio parte insieme ad altre 5 che forse sono già state nominate e rinominate, però le rinomino per nome, senza cognome, così facciamo prima: Annalisa, Francesca, Cristina, Arianna e Cristiana, che Sì. facciamo parte un po' noi lo chiamiamo il direttorio, così per ridere. Però insomma siamo un po' lo zoccolo duro dall'inizio insomma, di base noi più o meno ci siamo sempre, ecco, tra autrici e attrici. Però sicuramente è la prima volta che ci sentiamo. Esattamente, sì, è vero. Vero, vero. Paola, allora, visto che tocca a te, Sì. come la definiresti questa formula? Come la presenteresti a chi ci ascolta? Dici questo volume 5? In generale, Ugo Ah, come... Ugo in Beh, sì. generale? Ma Ugo, io quando lo dici che cos'è? Ma innanzitutto è una serata comica, divertente, in cui ci sono, è una raccolta di monologhi che possono variare di durata, ma più o meno hanno un massimo di 8 minuti, così non ci si stufa. Ci sono anche dei pezzi musicali poi c'è, sì, insomma, questo direi, un contenitore di monologhi comici. Siamo donne, ma non è questa la cosa importante, perché non siamo donne nel senso che tocchiamo tematiche femminili, però siamo donne perché Diciamo che non è casuale, ma neanche fondamentale. esatto, non è casuale, ma neanche fondamentale, però non è casuale perché Certo. Senti Paola, io sono stato a una delle edizioni, è anche una serata conviviale. certo, infatti ci si vede. Prima c'è lo sponsor Magnolia che ti offre un rinfresco, vino, aperitivo, una roba molto particolare, molto buona, e ci si vede in genere intorno alle 9, si fa una mezz'ora di convivialità e poi alle 9 e mezzo, ritardi più, ritardi meno, alle 9 e mezzo si attacca. Senti, i nuovi arrivi, le nuove arrive, come è funzionato con loro? Bene, questo venerdì per la seconda volta abbiamo Laura Formenti da Milano, che è una vera e propria stand-up, lei fa proprio stand-up comedy, Ok. e l'abbiamo avuta un paio di Ughi fa ed è stata molto forte, quindi l'abbiamo rivoluta. In più lei ha una serata il giorno dopo, il sabato 21 alla Pecora Elettrica, e quindi abbiamo deciso di unire le due cose. Ok. Poi abbiamo Luisa Merloni, che anche lei è già la seconda volta che è con noi. E viene dal teatro. Sì, Luisa Merloni è un'attrice di teatro, esattamente. Ma ce ne abbiamo parecchie di attrici Sì, di sì, teatro. sì, Sì, sì. sì, sì, Ecco, facevi riferimento prima alla stand-up comedy, alla musica, al teatro. È una mescolanza comunque di provenienze. sì. È un po' una mescolanza, ed è anche questo il bello, Sì. secondo me, la forza di questo esperimento, perché vieni che non sai mai esattamente che cosa vedrai, i generi sono vari, quindi non ci si annoia, magari non te ne piace uno perché può capitare, però ti piace quello dopo e poi appunto scorre, passa, somiglia molto. Io sono stata da poco a New York al Comedy Cellar, che è quello da cui sono nati tutti, e fa, anche lì fanno loro forse ancora di più perché hanno proprio ta, ta, ta, ta, ta, li cambiano a velocità ultrasonica, però insomma l'idea è quella di appunto provare generi, stili diversi, proprio perché poi qualcosa che risponde al tuo gusto lo trovi, ecco, Senti, considerato che è la prima volta che ci sentiamo, Paola, qual è invece la tua estrazione, teatro artistica? anch'io, Sì. teatro anch'io, sono diplomata all'Accademia Televisa Amico qui a Roma nel ormai lontano 2003 e quindi sì, direi teatro. Però Teatro. devo dire che il mondo della stand-up comedy è un mondo che mi affascina tantissimo, mi cibo proprio degli stand-up americani, di vari special su Netflix, perché è una cosa che mi piace tanto, e sto anche scrivendo il mio primo pezzo Quindi per il momento preferisco fare i pezzi di altri, Stash e Tutti di base. Però sì, insomma, è una bella cosa, comedy si è fatta bene, Sì, ecco, sì. che è quello poi il difficile. Senti, considerato anche che sei nel gruppo, Il direttorio, nel di chiamiamolo direttorio, e quindi hai partecipato anche a tutte le serate, che strada sta prendendo? guarda, è una bella domanda perché è proprio una cosa su cui ci stiamo interrogando, ci si interroga su questa cosa nelle ultime riunioni e adesso poi è un momento un po' così perché arriva l'estate, quindi Radio Rock va lì dove siamo adesso, farà sicuramente troppo caldo per continuare d'estate, quindi stiamo pensando a come espanderci, come estivizzarci e sicuramente però di buono sappiamo già che apriremo il Gay Village il 1º giugno, Ah. Ugo, di tutti questi volumi di Ugo, e quindi sì, insomma sarà una bella serata quella del 1º giugno, sarà divertente. Senti, ma la locandina, sempre questa brutta astronauta, ma perché? Scherzo. Senti, Paola, allora ricordiamo questo appuntamento con Ugo volume 5 a Radio Rock qui a Roma il 20 aprile a partire dalle ore 21 e 30. 21. 21, se venite alle 21 si sta un po' insieme, si beve e si mangia, anche 21 meno un quarto, ma 21. E poi 21 e 30 si inizia. In genere un'oretta e mezza di spettacolo, vero? Sì, può variare dall'oretta e 20 all'oretta e mezza, sì, diciamo in media un'ora e mezza. Ok, allora io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico, un bacio a te. Ciao. Ciao, ciao.